salliere a 100 penne e l'alpino ne ha una sola, è un po' più lunga, è un po' più mola, sol l'alpino la può portare. Su